sotto le stelle della bandiera americana, come la tua gonna, come la tua gomma. Si muovono gli eserciti, qui c'è voglia di scappare, per trovare un po' di pace dove bisogna andare. Mi ricordi l'alba vera, mi ricordi l'alba vera. Sarà un altro giorno passato nel letto, con la bottiglia dell'acqua a fianco e il telefono stretto. E questo sole da New York mi sveglia nel mattino, ma non sei più vicino. Eh no, e vorrei dormire ancora. Poi le porto fino a Saturno. Dove sei tu? Oh, dove sei tu? Comincio la battaglia con la mente e con il corpo, ma faccio la canaglia e prendo la chitarra che mi porta fino a cena, che mi porta fino a casa. Sarà un altro giorno passato nel letto, con la bottiglia dell'acqua a fianco e il telefono stretto. E questo sole da New York mi sveglia nel mattino, ma non sei più vicino. Eh no, e vorrei dormire ancora un po', mentre volano le foglie di questo autunno. Tanto poi le porto fino a Saturno. Dove sei tu? Oh, dove sei tu? Oh, dove sei tu? Il profumo delle pezze da te mi smuove, e la soppa che il mare delle docce all'aperto fregene. Di Simone e Cristina che si voglia bene. Questo sole da New York mi sveglia nel mattino, ma non sei qui vicino. Eh no, e vorrei dormire ancora.